piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Non tutti lo conoscono, ma negli ultimi tempi su ogni partita del Capitale italiano il suo zampino è spuntato spesso. Lui è Alessandro Proto, 38 anni, milanese, l'ultimo ad avere tentato una scalata avventurosa alla RCS, racimolando poco meno del 3% del capitale blindato in un patto con un indiano, un americano e un brasiliano che sembra quasi l'inizio di una barzelletta, ma non lo è. Proto, sulla società che controlla i Corriere, aveva dichiarato questo patto di sindacato, ma senza nomi, dei suoi bilanci, della sua società, la Proto Organization, con sede a Londra. Non esiste una cifra, un dato, niente di niente. Proto ha poi raccontato di aver fatto passaggi anche su Unicredit, Espresso, ha fatto un'offerta anche per la 7 e, decidendo di non farsi mancare niente, ha investito anche sul Monte dei Paschi. Eh sì, si sarebbe comprato anche il Sole 24 Ore e oggi potrei essere un dipendente di Alessandro Proto, se fosse stato tutto vero. Alessandro Proto è l'uomo che ha preso per il culo praticamente la quasi totalità dei giornalisti italiani. E il piacere del dubbio questa mattina è se stia facendolo anche con me, visto che è in studio. Buongiorno Alessandro Proto. Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi invitato. Perché mi hai detto, hai avuto coraggio a chiamarmi? Perché il Sole 24 Ore, insieme a tutti gli altri giornali italiani, sono stati, diciamo, complici della mia truffa, tra virgolette, della mia truffa mediatica. Ti hanno creduto. Mi hanno creduto tutti, però non so se tu lo sai, però questo libro è in cima alle classifiche dei libri più venduti, però nessun giornale italiano... Detto da te è privo di ogni fondamento, dopo no, controllo, non lo so, lo dici, vabbè. È su Amazon. Capirai. Però nessun giornale italiano... Online, non nelle librerie. No, nelle librerie. Se tu vai nelle librerie lo trovi proprio fuori. Vabbè, comunque, il libro è Io sono l'impostore, Alessandro Proto, scritto insieme a Andrea Ceresini, che è un giornalista. Esatto, ma infatti... Ma l'hai preso per il culo anche lui? No, ma il vero impostore non sono io, ma è Andrea Ceresini. Infatti dice, io sono l'impostore di Andrea Ceresini. Allora, cominciamo. Alessandro libro Proto. Uscito per Il Saggiatore. Sulla copertina c'è un signore con una giacca elegante, con la pochette bianca, con la testa di lupo. Perché c'è la testa di lupo? Spiega, così capiamo subito il contesto. Allora, era venuto Scorsese da te? Allora, la testa di lupo l'hanno scelta ma perché il c'è signore un motivo. Del Saggiatore. C'è un motivo, perché sostanzialmente loro dicono, io non lo dico, però molti dicono che la storia del lupo di Wall Street è un po', diciamo, paragonabile alla mia storia, e quindi hanno messo... Tu l'hai fatto credere però che vogliono fare un film anche su di te. L'ho fatto credere e l'ho fatto scrivere soprattutto. Come hai fatto? Dimmi il meccanismo. Vediamo, partiamo da questo esempio. Come si fa a far uscire sui giornali che sei cercato per fare racconto la tua storia dal più grande regista americano che vuol fare su di te la storia del lupo di Wall Street ambientata alle nostre latitudini? Esatto. Allora, è molto più semplice di quello che si può pensare, anche se a dire la verità neanch'io effettivamente so come si è riuscito a far uscire tutto questo nel giro di 4-5 anni. Giornalmente ero su tutti i giornali, però bastava semplicemente inviare, per me perlomeno, bastava inviare un comunicato stampa a qualsiasi tipo di redazione, dal Sole 24 Ore a Repubblica, al Corriere, tutti i giornali. In questo passati. È stato bipartisan, è preso per il culo tutti, ne ha salvato tutti. L'Osservatore Romano? Non se ne è salvato nessuno. Giornali dei Preti? No, L'Osservatore Romano no, perché no. Non avevi interesse? Non mi interessava, e quindi non... Però tutti gli altri sì. Quindi con dei semplici comunicati stampa. E quindi tu hai fatto credere che ti stavano cercando Scorsese, chi era che ti cercava? Io ho fatto credere che Martin Scorsese stava girando un film su di me. Tra l'altro, se voi andate adesso in questo momento su My Movies, che è, diciamo, è la Bibbia del cinema italiano, e mettete come biografia di film autobiografici o biografici, voi troverete un film che si chiama Io sono l'impostore. No, scusate, Il Manipolatore. Se voi cercate Il Manipolatore... E Il Manipulador anche in spagnolo. Il Manipulatore e The Manipulator in inglese. Troverete la scheda tecnica del film. Film in preparazione. Con Martin Scorsese come regista. Che però è tutta una bufala, non esiste. Non esiste. Alessandro Proto, come hai cominciato? Diciamo, la tua prima botta di fortuna, tu sei un ragazzo semplice, di famiglia modesta, nato a Milano con la famiglia di origine pugliese, normalissima, anzi, diciamo, fanciullezza e adolescenza, non dico indigente, ma ti fa onore questo, ti sei dovuto guadagnare da vivere, nessuno ti ha aiutato. Diciamo che fanciullezza e adolescenza assolutamente indigente, ma non me ne vergogno, cioè nel senso non è colpa di nessuno, né mia né dei miei genitori e di nessuno, quindi diciamo sono cose che capitano nella vita. C'è sempre stata questa voglia di rivalsa nei confronti della vita. E fortunatamente io potevo prendere due strade, o la strada diciamo della criminalità, ma la vita organizzata, certo, esatto, quella vera, oppure un'altra strada che era quella di rimboccarsi le maniche e di lavorare. Ho scelto la seconda, di lavorare. Ho iniziato vendendo libri porta a porta e poi piano piano facevo lavori normalissimi come l'agente immobiliare piuttosto che altro. A un certo punto le cose non andavano neanche così male. Ebbi un'intuizione, perché George Clooney nel 2009 mi sembra voleva vendere la villa, e io inviai un comunicato stampa al Corriere della Sera, quello fu il mio primo comunicato stampa, dove dissi: guardate che George Clooney vuole vendere la villa. Ma era vero, erano venuti da te dei suoi rappresentanti? Erano venuti da me dei suoi rappresentanti, perché io avevo una società immobiliare a Lugano. Lui ha la villa vicino a Poi ti hanno fatto firmare un patto di riservatezza. Loro mi fecero firmare un patto di riservatezza, vennero a Lugano pensando che a Lugano potevano trovare la massima privacy, invece incontrarono me e da lì iniziò tutto. Allora, 800240024, ricordo che siamo in diretta, so che sarete calamitati dal racconto di Alessandro Proto, ma potete intervenire, fare domande. Alessandro Proto è entrato nel meccanismo dei media, ha forzato quello che sembra un meccanismo comunque capace di importanti verifiche, ma però evidentemente ha trovato quello che è il lato debole dei giornalisti. Lui probabilmente aveva, non voglio dire, ma un suo preconcetto, vi dico come descrive i giornalisti con cui cominciava a avere rapporti, ai quali lui propinava le sue finte notizie, entravano nelle prime pagine dei giornali. Dice: li guardo in faccia a faccia uno a uno, con le loro camicie sudaticce, le unghie mal curate, le stempiature orlate di capelli bianchi, i loro occhialetti intellettuali falliti. Non so se odiarli o compatirli. Lui che è in tasca, lui parla in terza persona, talmente che scrive il libro, che è in tasca la terza media, ora dopo averli inculati per anni, sta pure per diventare il loro padrone. Perché a quel tempo lui aveva millantato, avrebbe comprato, non so, il Corriere della Sera, il Sole 20. Quanti giornali hai millantato di dover comprare? No, ho millantato che poi alla fine sembrava tutto reale, perché erano il Corriere della Sera, l'Espresso, ma anche Mediaset. Compravi Mediaset? Il Sole 24 Ore. Era Mediaset, un bel business. Era un bel business, ma non è solo quello. Il problema è che sono uscite anche notizie dove io avrei comprato la Fiat, dove io avrei comprato Mediobanca, dove io avrei comprato Unicredit, MPS. Ma come funziona? A un certo Fonsai. Punto, quando in un motore di ricerca il tuo nome appare con insistenza in alcuni importanti affari, sembra sciocco non credere che potessi fare anche il passo ulteriore, comprarti delle grandi aziende. Così funziona. Ma sì, funziona così. Diciamo che io avevo messo i tasselli per creare un impero. Questo impero si stava creando. Io ricevevo, ovviamente il nome era tutti i giorni su tutti i giornali, con una credibilità massima del 100%. Andavi anche in televisione? Sono andato in televisione un paio di volte, anche se diciamo preferivo evitare il confronto diretto con i giornalisti a livello pubblico. Perché poteva essere pericoloso. Perché poteva essere pericoloso. Io diciamo che io ponderavo ogni scelta, quindi ogni mossa veniva studiata. Beh, tu avevi anche un bello staff di ragazzi che avevi addestrato per, diciamo, dare le notizie. Non è che di prima persona tu chiamavi i giornalisti, cioè chi lo faceva per te? No. Allora, i giornalisti io non li chiamavo mai, io mandavo solo comunicati stampa, e poi erano i giornalisti che chiamavano me e io decidevo con quali giornalisti parlare. Facendo anche il figo? Sì, assolutamente, perché faceva parte del personaggio. Quando ti chiamò Della Valle, ci non parlo con il suo tirapiedi, no? Cosa esatto, avevi detto? Esatto, mi chiamarono da Toz perché volevano sapere il discorso di RCS. Al tempo Della Valle era in ballo per la partita RCS, mi chiamarono e io chiesi se all'incontro fosse stato presente Della Valle, mi dissero di no, io dissi: bene, se non viene Della Valle non vengo neanche io. Abbiamo Gino al telefono. Gino, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Nicoletti. Sì. A qualche devo parlare o così vuol dire? Faccia quello che vuole, a pochi secondi, no, perché no, il tempo passa. Io non sapevo di dire che lei mi chiamasse e mi parlasse. Se lei ha fatto il numero, la chiamiamo, mi dica. Sì, certo. Io certamente passerò per un bacchettone, passerò per un... Vada la domanda. Un moralista, sì. Quindi lei... Ma un po' la voce ce l'ha da sacrestato, prego. Lei è molto, molto, molto... Vada al punto, Gino, poco tempo. Qual è la domanda? Subito, glielo dico subito. Maria Costanzo andò a intervistare uno che ha ammazzato i genitori. Sì. Lei va a dar sì. Voglio dire, visibilità a uno che è un impostore, così. Ma dico io, scusi, sa... Ma voi che ci state a fare lì? Soltanto, non so, dovreste avere un pochino sì. di idealismo. Ma mi lasci parlare, perché no, beh, insomma, non mi sì, fa lo mai so, parlare Gino, nessuno. Gino, no, Gino, è Dorri che sta parlando. La domanda fa, dice, quale morale hai tu che fai parlare un impostore? Io spiego, io faccio il giornalista. È una notizia il fatto che Alessandro Proto, che ha preso per il culo per anni la maggior parte dei miei colleghi, abbia scritto un libro e a piede libero ha pagato il suo conto con la giustizia, ha patteggiato, è stato in galera. E quindi mi racconta come ha fatto. È, secondo me, didattico far capire quanto il sistema di quale noi facciamo parte possa essere permeabile. Questa è la risposta che le do, non ho altro da dirle. E devo dare una informazione a questo punto al pubblico che ci ascolta. Oggi in studio 4 ragazzi, poi ne avrò altri 4. Sono i protagonisti del secondo master Radio TV e Web Content del Sole 24 Ore. Io sono anche modesto docente, sono ragazzi giovani, pieni di ideale, pieni di entusiasmo, tutti studiano scienze della comunicazione e li ho portati proprio per fare delle domande intelligenti ad Alessandro Proto, l'ascoltatore che appartiene a una generazione ormai passata, che pensa che chi fa il giornalista debba fare, non so, il catechista o il salvatore della morale pubblica. Io cerco di entrare nelle notizie. Cominciamo con Lidia. Lidia, allora, quanti anni hai? Buongiorno, sì, ne ho 24. Tu hai studiato? Ho studiato scienze politiche, mi sono laureata a luglio alla sede di Forlì dell'Università di Bologna. Brava, fai la tua domanda appunto. D'accordo, in realtà diciamo che ha già risposto, però volevo saperne un attimo di più. Il primo esempio di questa frase che cita Repubblica tempo fa rispetto all'annunciare una cosa positiva, come ad esempio l'acquisto di una magione, di un castello, di una proprietà da parte di una star, questo binomio funziona molto per la psicologia del paese, attira molto e infatti è il tipo di notizia che va per la maggiore. Altri esempi di questo genere di... Tradotta la domanda, tira più un pelo della Canalis, che è una notizia importante. Ma per quanto riguarda me, tirava tutto, nel senso che qualsiasi cosa io inviassi via mail, attenzione, io sto parlando di comunicati stampa via mail, quindi non parlavo con i giornalisti. Io prendevo... Ma chi li mandavi esattamente? A tutti. Ma tu mandavi io prendevo la mia mail, poi facevo CCN, quindi copia per conoscenza nascosta, e via. Inviavo la mail a tutti. Il primo che la pubblicava era il più vinceva. Però di la corsa, la notizia e il succose. Esatto, però di conseguenza poi cosa succedeva? La pubblicava l'ANSA, usciva al Sole 24 Ore, usciva Repubblica e via dicendo. Poi quando esce nell'ANSA, naturalmente l'ANSA è una fonte primaria abbastanza, però cioè, attendibile nel senso. La cosa interessante del sistema giornalistico italiano, ma non solo italiano, perché poi io ho fatto la stessa cosa anche nel resto del mondo, qual è? Che se esce una notizia dell'ANSA o di Repubblica o su Sole 24 Ore, gli altri giornali non vogliono essere da meno, quindi fanno uscire la notizia. Certo. Però che cosa fanno? La arricchiscono con un particolare in più. Io davi te il particolare. Quindi loro mi contattavano. E tu dicevi davi caramelle. E io gli davo un particolare, quindi gli davo il contentino. Marco, veloce sì, presentazione, buongiorno. Al minuto, allora, fai la domanda. Io ho 22 poi... anni e mi devo ancora lavorare in filosofia, mi lavorerò a giorni. E le volevo chiedere, farle una domanda un po' particolare. Se una cosa è vera per se stessi, diventa vera anche per gli altri? Cioè qual è il limite tra la cioè una tu cosa ci credevi vera? Alle tue cazzate te per prima? Io ci credevo. Io le traduco sempre come vanno dette per radio poi le domande. Assolutamente sì, io ci credevo perché dovevo entrare in un personaggio, era come un film, la mia vita era un film e probabilmente è un film. Io entravo nel personaggio e quindi pensavo di essere proprietario dell'1,5% della Fiat o del 3,5% di RCS. Bianca Maria. Sì, buongiorno, io ho 27 anni e mi sto laureando in editoria e giornalismo all'Università degli Studi di Verona, ma quello che abbiamo visto è che alla fine lei aveva costruito una piramide di notizie e bufale e fake news, non ha mai avuto paura, la sensazione di perdere il controllo su questa bolla che si ingrandiva sempre di più e che alla fine è scoppiata? Io il controllo l'ho perso, in verità. Tenevo tutto sotto controllo, però questo controllo che io pensavo di tenere in realtà non c'era. Perché in effetti poi io non dimentichiamoci che comunque io sono stato arrestato, se no non andavi in galera, esatto. Se l'avevi sotto controllo, esatto. Giuseppe, ultima domanda, poi passiamo alla... Sì, brevemente, Giuseppe, sono laureato in scienze politiche. La domanda è questa: lei ha fatto una distinzione tra malavita, no? Sarebbe potuto finire nelle braccia della malavita. Quello che ha fatto, che cos'è? Quello che ho fatto è... Cioè, sei un criminale o no? Sì, è stato un reato dal punto di vista... colgo l'occasione per rispondere a questa domanda, per dire una cosa. Tutti quelli... Io non sono mai stato contattato da nessun esponente dell'organizzazione criminale. Beh no, in galera sì, ti hanno portato a prendere il caffè dal boss dell''Ndrangheta. Sì, in galera sì, però attenzione, io prima, perché io ovviamente sui giornali sembrava che io avessi centinaia di milioni di euro, nessun criminale mi ha mai contattato. Questo vuol dire che i criminali erano più intelligenti dei giornalisti, cioè secondo me i criminali avevano capito che era tutta una cazzata, invece i giornalisti no. Fermiamoci un attimo, 800 24 00 24, le telefonate sono molte, gli daremo modo di esprimersi tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Imperversa la polemica tra Elisabetta Canalis e il manager Alessandro Proto, e pensare che tutto è nato con l'illazione da parte della stampa che tra i due potesse esserci del tenero, dopo l'annuncio da parte dell'ex velina della rottura con Brian Perry. Sia Proto che la Canalis hanno fermamente smentito le voci, negando anche di conoscersi, eppure anziché condividere la sventura se ne sono dette di tutti i colori. Ad iniziare è stato Alessandro Proto che, in una lettera recapitata a Il Messaggero, ha affermato: smentisco categoricamente qualsiasi tipo di... 800 24 00 24, abbiamo in studio Alessandro Proto, l'uomo che ha scritto il libro Io sono l'impostore, editore Il Saggiatore, insieme ad Andrea Ceresini, che è un collega, un giornalista. Il sottotitolo è L'uomo che ci ha fregato tutti. Quindi sta fregando probabilmente anche me in questo momento, Alessandro Proto. Può darsi. Può darsi, sai, non me ne faccio un problema, mi taglio le vene. Però dammi atto, sono l'unico che ti ha chiamato a parlare alla radio. Allora, di questo devo dare atto. Il Sole 24 Ore, e tu nello specifico, certo, secondo me perché non lo sanno. No, lo sapevano tutti, ma figurati perché che sono qua. Perché siamo talmente forti e non abbiamo paura. Non mi avrebbero fatto entrare. Repubblica ti ha chiamato? Allora, Il Saggiatore, che è una casa editrice molto blasonata, ha contattato tutti: Repubblica, Il Corriere, Il Fatto Quotidiano, tutti, Il Messaggero. Nessuno ha voluto scrivere un pezzo su di me, perché quando dicevano il nome di Alessandro Proto gli chiudevano praticamente la porta. Gli bruciava il culo, si dice in termini tecnici, sì. Beh sì, perché comunque erano stati vittime. Vabbè, sentiamo qualche telefonata. Enrico, Napoli, veloce. Buongiorno. Sì. Abbiamo lì Proto, che è venuto a galla. Proto, dalla sua esperienza, quanti Proto ci sono in giro e che non sono stati beccati e non hanno scritto Proto un libro? Proto, ce ne stanno ancora, come lei? Allora, come me non ce ne stanno, però il meccanismo c'è, nel senso, il meccanismo dell'aggiotaggio, della manipolazione del mercato viene fatto costantemente, giornalmente, non da tipi come Alessandro Proto, che non hanno nulla o che non avevano nulla, ma da persone che sono sul panorama economico-finanziario giornalmente. Quindi non ci sono Alessandro Proto, ma c'è un metodo di manipolazione del mercato che va avanti giornalmente. Alessandro, sì, buongiorno. Sì. Ascolti, io ho questa vicenda, secondo me è totalmente irreale, e mi ricorda, non so se ce l'ha presente, un film degli anni 80, si chiamava War Games, dove un giovane, sì, Matthew, certo, Broderick entrava con il suo computerino da casa, sì, e fa scoppiare la guerra termonucleare, insomma, sì. E nessuno si chiedeva in realtà chi fosse, cosa stesse succedendo. Ora io volevo chiedere, ma il signor Proto, in tutte queste sue vicende che l'hanno coinvolto, non ha mai trovato, diciamo, un giornalista d'inchiesta, diciamo, che approfondisse? Sì, adesso le rispondo, capito, le risponde, però sa, non c'era da approfondire, perché ha notizie banali. La Canalis si arrabbia perché Proto ha detto che è vecchia e gli manda le foto di lei nuda. In realtà l'aveva prese lui dal sito Instagram, il profilo Instagram della Canalis, e l'ha mandata ai giornali. Proto, nessuno ha mai provato a farti le scarpe? Nessuno mai quando eri in vita come proto? No, nessuno ha mai approfondito tutto. Però il discorso non è tanto il discorso della Canalis o della villa di Zuckerberg venduto. Il discorso per il quale io, tra l'altro, sono stato arrestato, che è molto più grave, è l'aggiotaggio, la manipolazione del mercato. Ed è lì che i giornalisti avrebbero dovuto indagare. Non tanto, ripeto, sul fatto. Sul gossip, no, che tanto sul gossip è scritto nell'acqua, non sono mai notizie. Non gliene frega niente a nessuno. Però se io dico e dichiaro di aver acquistato lo 0,8% di Unicredit e nessuno verifica questa notizia, allora è molto grave. Helen. Buongiorno, sì. Io telefono per sapere qual era la sua motivazione, signor Proto. Helen, la voce di Wall Street, sentiamo. Qual era la mia? No. Qual era la tua motivazione? Perché l'hai fatto? Per i soldi? No. Per i soldi. Certo, per i soldi, Helen, per i soldi. Grazie. L'hai fatti tanti? Ne ho fatti tanti e me ne hanno portati via tutti. Ma ne hai inquattati un po', tanto non mi rispondi. Ridi, stai fa il sorrisino. Simone. Avete già risposto. Volevo chiedergli come faceva a fare i soldi. Chi è che glieli dava alla fine? Un sacco di gente. Sentiamo i piccoli imprenditori che facevano la fila per venire da te e gli facevi business plan. Chi erano? Senza dire i nomi, poverini. Allora, non solo i piccoli imprenditori, anche grandi imprenditori. Tutti venivano, diciamo che io avevo sfruttato questo sistema mediatico dei giornali, quindi i giornali erano miei complici praticamente. Il nome aveva preso una piega talmente alta che alla porta del mio ufficio, che ricordo era in Piazza del Duomo, con la vista sul Duomo, venivano a bussare tutti sostanzialmente. Tutti chiedevano qualsiasi cosa e io mi facevo pagare per qualsiasi cosa. Un incontro con me per un'ora costava 2500 euro. E non te li do manco se schiatti adesso 2500 euro. No, ma io non li prenderei neanche da te. Manco ce l'avrei così, cash da darti. Allora, sentiamo le voci dei fantastici studenti del secondo master Radio TV World Content. Già solo dopo un'ora di mia docenza sono in grado di fare queste domande. Leonardo. Ciao, mi chiamo Leonardo, ho 26 anni e mi sono laureato all'Università Cattolica di Milano in Politica Europea Internazionale. Senta, avrei una domanda per lei. Lei probabilmente ha visto il film di Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Ecco, in che maniera si rivede nel personaggio interpretato da DiCaprio di Jordan Belfort? Ma, a dire la verità, la domanda dovrebbe farla lui, cioè nel senso come lui si rivede in me, perché fondamentalmente il film è ispirato a me. Beh, questo che ribadisce la sua cazzata. Luca. Salve, sono Luca, ho 24 anni e vengo da Palermo. La mia domanda è: cosa farà ora Alessandro Proto? Motivo la domanda. Nel passato, tra le dichiarazioni, è stato detto vale più una pagina che un'intera carriera ed è meglio fregare che essere fregati. Non pensa Alessandro Proto di essersi un po' fregato la carriera? Allora, paradossalmente la mia carriera sta aumentando. Inizia ora, diciamo. Inizia ora fondamentalmente, perché con il libro... Con quello che ho fatto piuttosto che altro, io oggi vengo contattato da tantissime aziende, tantissime persone che mi chiedono consulenza sulla comunicazione. Cioè adesso ti chiedono, spiegami come si fa a fregare il mondo dei media. Esatto, sei professore, dovrà darti la laurea honoris causa, capito? Mi contattano e mi chiedono, per esempio io mi contattano delle aziende e mi dicono che hanno un prodotto da vendere e certo. Vogliono mettere questo prodotto sul mercato a livello mondiale e mi chiedono come fare. Diciamo che tu ti sei fatta una fama professionale scontando un po' di galera. In fondo quanto hai fatto di galera? L'ho fatto 2 mesi e mezzo. Poi è stata dura, da quello che ho letto è stata dura. È stata molto dura, ma anche se fosse stato un giorno la galera... In galera ci sono dei codici, ci sono delle... Eri rispettato te per quello che avevi fatto? Ero rispettato perché quando sono arrivato a San Vittore lo sapevano tutti. Perché ovviamente era uscito sui telegiornali, quindi lì in galera si guarda solo, l'unica cosa che si può fare è guardare la tele. E quindi quando sono arrivato tutti sapevano che ero io. E diciamo che avevano una... Insomma, sì, diciamo a San Vittore sono stato anche abbastanza bene. Poi mi hanno trasferito a Pavia. È un po' più dura. E lì è stato un pochino più duro. E quando ti ha ricevuto il boss dell''Ndrangheta, dovevi fare un atto di omaggio, se no non vivevi lì dentro. No, allora, perché io quando sono arrivato a San Vittore c'è da dire una cosa, c'è un antefatto da dire, che io prima di essere arrestato per circa un anno andavo ogni venerdì mattina a San Vittore a fare dei corsi di vendita per i giovani detenuti. Ah sì, già, tu facevi lezioni di marketing e vendita detenuti. Io facevo lezioni di marketing. Un'altra paraculata che tutte ne parlavano, una cosa da Sì, però lo facevo perché lo sentivo, infatti insieme alla dottoressa... Quindi hai anche un lato civile, buono, umanitario. Ma io sono buono, insieme alla dottoressa Manzelli, che era la direttrice del carcere, non so se lo è ancora, studiamo questa cosa di fare ogni venerdì mattina per un anno. Io andavo ogni venerdì mattina a San Vittorio e quindi quando sono stato arrestato mi conoscevano tutti fondamentalmente, e la dottoressa Manzelli probabilmente, anzi sicuramente, mi ha messo in una cella diciamo sostenibile, dove c'era dentro questo boss calabrese, cioè che... ti salvavi l'osso sacro, diciamo, è questa cosa. Esatto. Alessandra. Salve, io sono Alessandra e ho 25 anni. La mia domanda è: ha passato tutto questo tempo a prendere in giro giornalisti? Perché si fa raccontare proprio da un giornalista? Probabilmente è finto, non esiste, non sappiamo. Però. No, Andrea Ceresini esiste. Uno bravo anche. È un bravissimo giornalista ed è l'unico. È Firenze, ma è uno bravo. È uno dei pochi giornalisti di cui mi fido. Io ho ricevuto molte richieste di scrivere libri, e questa è la verità. Tra l'altro da giornalisti anche che mi hanno massacrato dopo l'arresto, perché dicevano: beh, ma è una storia incredibile, scriviamo un libro. Io ho sempre rifiutato, finché Andrea, che ho conosciuto circa 3 anni fa, che mi fece un'intervista, dopo siamo diventati amici, mi ha proposto questa cosa del libro e l'abbiamo fatto. Un giornalista d'inchiesta, collabora per varie testate nazionali, poi uno bravo. Chiara. Ciao, sono Chiara. Sono un alcolista anonima, dai. Volevo deviare un secondo sul lato forse un po' più umano, uscendo adesso l'ho scoperto. Sintetiche le domande, ragazzi, sì. Non c'è premessa. Il recupero domanda. Della credibilità dopo tutto quello che è stato, dopo, cioè, come il libro, ti come nel privato e nella vita poi lavorativa. Allora, c'è questo aspetto da dire, che nel mondo della comunicazione la credibilità si perde e si guadagna in un attimo. Per esempio, io ho fatto uscire una notizia qualche mese fa dove si diceva che avevo donato 5.000 euro a un canile. Questa notizia ha fatto anche questo il giro un po' di tutta Italia, e io vengo riconosciuto come un filantropo. Per non era vero niente. La credibilità... No, non era vero. Beh, certo, da 5.000 euro a un canile. Ma la credibilità in Italia si perde e si guadagna nel giro di un articolo. Per questo che i politici italiani, secondo me, oggi su determinate cose sbagliano. Fermiamoci un istante, diamo il traffico e riprendiamo con altri 4 studenti della nostra inesauribile scorta. A tra poco. Melog 800240024, io sono l'impostore, costui Alessandro Proto, che questa mattina è qui in studio con noi. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutte e due. Al punto, ospite. Domanda. No, al punto, ecco, velocissimamente, io non mi scandalizzo che Proto è stato un genio e non ha fatto, fra virgolette, le attenuanti generiche. Detto a qualcuno che parla di cibo in TV ed è seguito in una maniera, perché non dice la verità, non si può ovviamente adesso, parlare. Scusi, Giampaolo, che ci frega? Io sto parlando di Proto, lei ce l'ha con chi parla di cibo. No, ma voglio dire, io le do le attenuanti generiche. No, ha patteggiato, ce l'ha avuta, sì, perché ha patteggiato. No, ma voglio dire, lui rispetto a chi in effetti va in TV, perché parliamo sempre di lui. Sì, però no? Il benaltrismo non c'entra. Giampaolo, perde il diritto di parola. Michele. Volevo parlare di Proto, non di gli altri. Michele, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì. Buongiorno. Ma io ho l'impressione che sia tutta una bufala la trasmissione, che Proto non esiste, che state testando se gli ascoltatori credono a quello che state dicendo, e quello che non ho capito è se gli studenti sono veri o se sono falsi, oppure loro sono presi in giro. Lei vive il complesso del complotto. Pensa, c'è un grande complotto. I studenti sono veri e pagano e seguono un master di cui sono anche docente. Verifichi nel sito del Sole 24 Ore. A Proto abbiamo chiesto i documenti, vero Proto? Comunque questo è fantastico. Gli abbiamo chiesto porta i documenti. Eh no, mica dobbiamo. No, una persona che non crede che esista questo, veramente. Cioè, però è fantastico. Lei è la conferma in realtà che Proto è un genio. Esatto. Nella sua immaginazione. Probabilmente Proto è frutto delle scie chimiche. Si convinca di questo. Fiorenza. Sì, buongiorno. Allora io ho una curiosità, ma posso, che se fossi un'azienda lo assumerei al volo, perché non solo gli darei una laurea in comunicazione. Ma detto questo, chiedevo se lui aveva un progetto già da subito, passando dalle vendite dei libri alla vendita di se stesso, e ha trovato quell'idea geniale, o è stato casuale, cioè se tutto è cominciato così e poi si è trovato dentro e l'ha cavalcato molto. Aspetta un attimo, bene. Bene, Fiorenza, Carlo, ultima telefonata, Carlo mi sfida, Carlo, cosa vuoi dire? Buongiorno. Sì. Allora, io lo considero fondamentalmente una persona molto intelligente e non capisco che in una trasmissione come questa, che si invita un personaggio come quello, ritengo che il compito del conduttore è anche quello di dire ascolti, lei è fondamentalmente un truffatore. Sì, gli ho detto da subito. No, scusi. Scusi. Ma che scusa, Carlo, sta zitto, Carlo, zitto da... Proto, sei un truffatore. Esatto, sono un truffatore. Sei un truffatore? Sono di tutto. Sei un truffatore? Sono un truffatore. Contento, Carlo. Stimolare le persone, scusi, che non devono stimolare... Carlo, si stimoli con attrezzi elettronici, lasci perdere. Carlo, stai esagerando. Gliel'ho detto dall'inizio, truffatore, ascolti la trasmissione. Sempre, io non faccio il missionario. Io non devo salvare le anime, io devo raccontare delle storie. A me cosa me ne importa cosa abbia, quale sia la coscienza di Proto? Devo raccontare la sua storia, che la trovo molto divertente, molto interessante. Interessante anche per Alessandro, sei vero Alessandro? Sì, io l'ultima volta che ho controllato ciao, sono Alessandro, 28 anni, ho studiato comunicazione e giornalismo all'Università del Nebraska. Volevo chiedere una domanda... una domanda veloce veloce. Quanto si sente narcisista da 1 a 10? Innanzitutto l'Università del Nebraska, se l'avessi saputo l'avrei messa anch'io nei miei comunicati stampa. Narcisista da 1 a 10? No, ma io non sono narcisista, sono molto... passo molto nel mondo. Lo faceva per i soldi, lo faceva per a me non mi interessava Era solo per il denaro, non c'è idealismo lui. Giovanni. Io sono Giovanni, ho 33 anni, ho studiato filosofia, ma qui in statale a Milano, non in Nebraska. E volevo farti questa domanda, mi volevo riconnettere alla domanda di Marco in cui ti chiedeva conto di questa verità che hai costruito. Hai detto di aver vissuto in una sorta di bolla a cui anche gli altri necessariamente dovevano credere. La domanda è, sei mai uscito da questa bolla e soprattutto con chi ti sei permesso di confidarti? Avevi un qualche familiare o caro amico a cui hai affidato tutta questa storia e la sua verità vera? No, assolutamente no, ero da solo, anche perché se dovessi dire che ci... Che sarebbe complice, andrebbe in galera. Sarebbe complice, comunque non parla, ero Proto, assolutamente Proto non solo. Parla. Luisa, allora scusa, Louisiana. Sì, Louisiana. No, poi Nebraska, anche Louisiana. Esatto, siamo in tema, appunto. Io sono Louisiana, sono laureata in editoria e giornalismo presso la Sapienza di Roma. Dunque, per definizione la parola morale significa ciò che conforme ai principi del giusto e dello sbagliato. Che cosa significa per lei giusto e sbagliato? Allora, giusto e sbagliato, oddio, domanda molto difficile, io non sono così intelligente, cioè nel senso, quello che è giusto è tutto ciò che mi ritorna, che può essermi utile. Giusto fa bene, sbagliato fa male, bene, esatto, così, ho aiutato. Esatto. Mariangela. Ciao, sono Mariangela, sono reale anche se molisana per rispondere all'intervento di prima e vado subito al dunque, volevo chiederti, ti sei giocato la credibilità per No, il non successo? Me la sono giocata, tutti dicono che mi sono giocato la credibilità quando in realtà la credibilità è aumentata. La lezione è questa, ragazzi. Proto ha guadagnato. Farsi la galera per Proto, si fregava le mani, anche se camminava spalle al muro. Sapeva che quello era il vero passaggio necessario per lui. Proto, qual è stato il terreno più minato? Tu ti sei anche messo in politica. Come hai toccato la politica? In che maniera? Allora, la politica è stato l'errore, diciamo, più grosso che abbiamo voluto fare. Tra l'altro ha associato il mio nome a Berlusconi al tempo, Berlusconi non riuscivano a buttarlo giù da nessuna parte, quindi pensavano che dietro di me, che giravo virtualmente centinaia di milioni di euro, fosse una sua emissione, esatto, potesse essere Berlusconi, invece in realtà tu non una volta non l'hai visto, però sei stato a casa sua. Sono stato in via Rovani perché loro mi diedero da vendere una loro villa a Cannes, dove mi dissero attenzione però non vogliamo pubblicità. Che dirlo a me, come dire, non lo so. Certo. Io il giorno dopo feci uscire un articolo sul Corriere della Sera, questi si incazzarono parecchio, mi chiamarono e mi convocarono in via Rovani, dove mi dissero ma su, giù, di qua, di là. Io molto tranquillamente dissi guardate, allora io non faccio più niente, io avevo un incarico di vendita con loro di 6 mesi, io dissi guardate, io sono disponibile a stracciare il vostro incarico, voi non mi date nulla, però vorrei conoscere lo zio Silvio, invitato a casa. Lo zio Silvio, perché venne il nipote di Berlusconi. Come si chiamava? Billy Berlusconi. Che tra Billy l'altro Berlusconi. Io volevo, tra l'altro aveva 28 anni e voleva venire a lavorare per me. Beh, lavorare con Billy Berlusconi era fantastico. E l'hai visto zio Silvio? Come è accaduto? L'ho visto, l'ho incontrato 5 minuti, mi è venuto incontro con un sorriso a 52 denti dei suoi. Mi disse complimenti dottor Proto, e sentiremo parlare molto di lei. T'ha più cercato poi? No, fortunatamente no. Chi ti cerca adesso della politica? No, della politica devo dire nessuno, però, ma fondamentalmente perché non, oggi non c'è nessuno in politica che sia degno di cercarmi. Nessuno degno delle tue cazzate. Esatto. Vabbè, questo è un gran complimento alla politica. Grazie a Alessandro Poto, grazie ragazzi del corso del master. Scendiamo in aula, continuiamo a lavorare. Tu vai al tuo lavoro, felice e contento. Grazie. Ci sentiamo grazie. Al prossimo racconto, la prossima presa per il culo. Ciao. A presto.